Okay. È una piacevole serata, dai, a tutti gli abitanti dello Sciame. È una freddina serata di ottobre, siamo qui dalla nostra regia di Frittole a tenervi compagnia sulle frequenze di Radio Wombat. Qui ai microfoni c'è il Beppy Manin, accompagnato da... Beh, presentatevi voi, dai, ragazzi. Ciao Beppy. Ciao Beppy. Sono il Reve, purtroppo il Reve. Io sono Diesis, buonasera a tutte. Buonasera a tutte e tutti, benvenuti su Radio Wombat. Speriamo per voi che, insomma, speriamo che non siate in diretta, perché sennò ci stareste ascoltando su wombat.noblogs.org 19:38, primo novembre. Sì, vediamo un po', ricominciamo come avevamo fatto in tempi più sospetti, forse, di questi, durante la grande chiusura, con le nostre trasmissioni speciali dalla nostra regia, a riproporre un po' un format che ci era piaciuto, che era quello di trovarsi appunto qui e vedere di leggervi qualcosa, di farvi sentire un po' di musica e soprattutto condividere grazie al grande strumento della radio, appunto la voglia di pensare alla contemporaneità, raccontarla, farsela raccontare e tutto quello che ci gira un po' attorno. Sì, siamo qui per dare degli spunti di riflessione senza una grande pianificazione, senza una grande tematica centrale. Vogliamo appunto condividere con voi i nostri pensieri e tutto ciò che ci passa per la testa in questo momento storico molto frizzante. Ovviamente a cercare di farvi ascoltare della buona musica che vi tenga compagnia, magari mentre vi state bevendo una bella birretta in questo orario, e per le nelle selezioni grandissime del reverendo. Non abbiamo ancora attivato il sidechain, il pratico servizio di compressione della musica mentre parliamo. Provvederemo. Ciao Beppy, che bello averti qua a anche te di Esis, cazzo, finalmente in questa nuova frittola rinnovata, largo ai giovani, e rottamiamo tutto e intanto diciamo un buonasera a tutti per ricordare il buon vecchio Palmiro che purtroppo non è qua con noi. E salutiamo anche dottor io, dottor noi, dottor tutti che sta tornando a casa in auto e gli vogliamo tanto bene. Ciao Palmi, ciao Doc, ci mancate tanto qui. E prima di iniziare, allora, cominciare subito con la nostra puntata. E volevo ricordarvi che per qualsiasi cosa, se avete delle domande, se avete degli insulti, se volete scriverci qualcosa che volete che venga letto, eccetera, fatelo senza remore, scriveteci a frittole@gattini.ninja. Provvederemo ad aprire la mail molto presto, chissà. No, c'è, nel senso, c'è già, dobbiamo aprirla noi dal computer. Scriveteci. Inoltre volevamo anche ricordarvi che ci sono grandi piani per queste puntate della domenica. Sarebbe bello invitare anche musicisti, anche grazie al nostro Palmiro che si diletta nella musica e ha voglia di portare questa parte di sé in trasmissione. Riusciremo, si spera, a portare della buona musica live le prossime settimane. Continuare un po' in musica con le nostre select del reverendo, andiamo un po' a dirvi cos'è un po' il programma di questa puntata. E quindi innanzitutto vorremmo dire due parole molto molto a caldo sulla Manif Sauvage che c'è stata questo venerdì qua a Firenze. E poi continuare con qualche lettura dalle cose che ci hanno stuzzicato in questi ultimi mesetti. E in particolare io volevo condividere con voi un articolo che che mi è capitato di leggere in questa raccolta di articoli sul, con, sulla mascolinità in chiave molto antipatriarcale, editato da un collettivo messicano e stampato appunto a Città del Messico dalle Ediciones de la Social nel 2017 e recentemente nel settembre di quest'anno tradotto a cura di un gruppo di lavoro di Giannino Clandestino. Leggerò degli estratti da qualche libro, da un libro molto interessante che ho letto proprio il mese scorso, che è Humus di Bianca Bonavita, e che mi ha colpito molto appunto con le sue riflessioni sull'attualità, sul mondo che conosciamo oggi e che ci spiazza, che ci chiede di agire in qualche modo. In questo, un po' in questo estratto, Bianca Bonavita fa una sua proposta, ecco, di azione. E poi volevo parlarvi di questo opuscolo di Michela Zucca, Donne delle foreste e delle montagne, l'eresia delle femmine ribelli. E insomma, vedremo poi in puntata cosa verrà fuori. Che bellezza. Si è quasi felici quando ci si imbatte nel muro di un ordine o di un divieto. Si riscopre in noi la sopravvivenza di una possibile disobbedienza. Allora, improvvisamente, il mare di palloncini colorati in cui eravamo immersi, il morbido, il soffice terrore di ovatta su cui fluttuavamo, sembra regredire al suo stadio precedente. I palloncini esplodono infilzati dalle baionette nascoste da sempre sotto un mucchio di parole civili. Prima degli spari c'è giusto il tempo di fare chiarezza. La cortina di fumo dell'avanspettacolo si dirada e i teatranti rivestono le loro maschere più sincere. I predicatori del compromesso tornano a percepire il loro stipendio da funzionari della delazione. I servitori diligenti tornano a dirigere la logistica del massacro. Gli zelanti esecutori a comandare i plotoni d'esecuzione. Non c'è soluzione di continuità tra i crimini di guerra e i crimini di pace. Era sempre rimasto lì, sotto pochi centimetri di parole, il vecchio onesto terrore dei tempi passati. Come una pustola, sempre pronta a scoppiare. E una volta scoppiata, a scomparire nuovamente sotto un'identica coltre di ovatta, separata come neve artificiale dai cannoni della democrazia. Non saranno le baionette a decimare le nostre fila. È una guerriglia sporca quella che ci fa ammalare, per contagio virtuale di terroristica vanagloria. Soli ne usciremo, se ne usciremo, attraverso le maglie più strette che sfuggono anche ai guardiani più accorti. Soli troveremo un guado o un valico per attraversare il confine. Oltre ci saranno altre montagne e solo allora, liberi dal resto, potremo ripensare a un noi, lontani dalle nostre armi giocattolo e dalle luci della battaglia, lontani dalla gloria, dalle illusioni, dall'ignara obbedienza e dal terrore democratico. Nella vana attesa non posso che restare avvinghiata sull'orlo del precipizio al trespolo della mia collina e continuare a dedicarmi a semine e sepolture, con la stessa fiducia di sempre, nella speranza che il ribollire dei detriti a valle non mi trascini a sé. E quando posso, diserto. Diserto, questa guerra chiamata pace. Diserto il disarmo del pensiero, diserto gli uffici e le lezioni. Diserto gli schermi, diserto le loro emozioni, i loro emoticon, le loro iniezioni, diserto il palcoscenico e le platee, diserto tutte le funzioni e tutte le gestioni, l'efficacia e l'efficienza, diserto l'essere donna e l'essere uomo, diserto il posto fisso e quello flessibile, diserto il posto fesso, diserto i loro sceni titoli di studio e diserto tutte le scuole, diserto il loro divertimento e i loro desideri, diserto. Perché da sempre sono arruolata. Diserto i valori e il loro maledetto lavoro, diserto i diritti e i doveri, diserto le benedette costituzioni, diserto tutte le vaccinazioni, i marchi e le certificazioni, diserto gli aeroplani e tutte le loro reti, diserto il fare rete, diserto il servizio civile e ogni servizio, diserto l'essere civile, diserto le città, le cittadinanze e tutti gli accampamenti. Diserto la storia che ci insegna e l'importanza della memoria, diserto il loro rumore e il loro guardare. Diserto le banche e le vetrine, diserto tutte le macchine, diserto ogni identità, diserto il loro realismo, cinismo, buonismo, diserto l'impegno, ogni forma di partecipazione, diserto ogni rivendicazione, diserto la transizione e la transazione, la resilienza e la resistenza, la crescita e la decrescita. Diserto i prestiti e i debiti, diserto i finanziamenti a fondo perduto, diserto i contributi, diserto le rateizzazioni, le autorizzazioni, le organizzazioni, le amministrazioni, le registrazioni, gli organismi e le associazioni, diserto le opinioni e l'informazione, diserto la comunicazione, diserto tutte le loro parole, diserto lo spettacolo, diserto la loro autoironia e la loro autocritica, diserto l'economia e la gloria, diserto il loro buonsenso e i loro progetti, diserto il loro cibo, diserto le truppe mandate al macello nelle trincee della normalità, diserto gli ospedali e i manicomi, diserto i treni e le strade, diserto i loro allenamenti dementi e i loro passatempi, diserto il loro tempo libero, diserto ogni stile di vita, ogni modello, ogni esempio, ogni testimonianza, diserto i loro corsi e i loro concorsi, i premi e i ricorsi, diserto le cause e le sentenze, diserto le assemblee generali e i gruppi di lavoro, diserto l'unanimità e la maggioranza, diserto ogni bisogno di prendere una decisione, diserto il loro noi e diserto il nostro voi e diserto le loro proiezioni, installazioni, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde, Diserto le loro partite, i loro campionati, le loro classifiche. Diserto le connessioni, diserto i loro social, i loro anti-social, i loro book e le loro app, i loro push-up. Diserto i loro pensieri green e i loro pensieri dark. Diserto il pin, il peel, il puck e la pack. Diserto il fast pay e le città slow. Diserto i post e i low cost. Diserto i loro maledetti cofanetti, diserto i touchpad e gli iPod, e i 3x2, e i tutto a 99 cent. Vorrei disertare, ma il più delle volte non posso. E se un giorno vi riuscissi a disertare il tutto, non potrei fare altro che disertare anche questa mia diserzione, perché in fondo non è che un capriccio del grande pescatore. Anch'essa un frivolo elemento d'arredo nell'impalcatura del suo potere. Una decorazione a buon mercato sulle corazze dei suoi cavalieri. Grazie Derek, grazie Diesis per questo estratto della sempre ben accetta Bianca Bonavita. Non è la prima volta che leggiamo cose sue qui a questi microfoni, e sono sempre forieri di grandi, sono sempre forieri di grandi emozioni. Questo elogio della diserzione, addirittura arrivare a disertare se stessi, appunto, e la diserzione. Ma arrivi a una diserzione totale e devi iniziare a chiederti: allora cos'è che non devo disertare, cos'è che ha senso fare, portare avanti, cos'è che ha davvero un valore? A me piace questo spirito qua, molto, questa cosa molto quasi punk, non so come dire, però un po' più intellettuale. Occhio Beppi, qua si scivola, si gioca su un terreno scivoloso. No, non volevo interrompere di Gavis, ma pure. Passeresti quel birrino, per favore? Sì, aspetta. E sono sempre sale. Non abbiamo ancora fatto sentire stasera uno stappamento di birra. Vi assicuriamo, cari ascoltatori e ascoltatrici, che sono avvenuti. E vi ricordiamo che potete scriverci su frittole@gattini.ninja, e che siete sempre qua su Radio Wombat. Niente, come sono ingessato stasera. Devo un po' riprendere la confidenza con questi microfoni. Almeno io sono parecchi mesi che non salivo a Frittole. Da qui un po' il mutismo, un po' l'impacciatura. Comunque sì, molto interessante questo libro, che ricordiamo si chiama Humus, Diario di Terra, Edizioni Pentagora. E appunto ve lo consiglio se volete immergervi nel mondo della terra, nel mondo della ciclicità, dei lavori contadini, delle stagioni e delle riflessioni su che cos'è oggi la campagna e che cos'è oggi vivere in un mondo globalizzato in cui la rete del grande pescatore sembra mangiare ogni cosa, sembra dipingere con una resina brillante qualsiasi oggetto che sta nella nostra vita, e quindi dobbiamo chiederci e discernere veramente cosa c'è di autentico e cosa invece è costruito da parte appunto di questo grande pescatore, come lo chiama Bianca. Io dicevo prima che apprezzo molto questa estetica qua, appunto, questa estetica molto punk, anche di rifiutare tutta una realtà che ci viene proposta dall'infanzia, dalla primissima infanzia, quello che ci viene costruito attorno, e come magari un percorso di crescita e di ricerca attorno ai principi di libertà, di uguaglianza, e tante. Due principi ci accomunano e appunto ci porta a mettere in critica, e mettere in critica fortemente quando non riesci a riconoscerti nella realtà che ti circonda, non riesci a rispecchiarti. C'è veramente la scelta della diserzione totale, e la scelta anche giusta, e ci mancherebbe altro. Però anche infatti la cosa che ci piace molto di Bianca Bonavita è appunto che invece c'è un collegamento, come sapete qua dei microfoni di Frittoli siamo molto affezionati a questo tema, appunto quello della terra e quello invece di una relazione con l'ambiente che abbiamo attorno, e con l'ambiente intendo anche un ambiente sociale, un ambiente economico, un ambiente relazionale, un ambiente di tutti i tipi che invece ci piace, in cui ci troviamo un sacco di senso, e questo è un discorso altrettanto forte che quello appunto della diserzione. Solo dire che nel caso non ve ne foste accorti, stiamo andando completamente a caso alla deriva su Bandcamp, per cui insomma, se non partono pezzi e se ci sono cose inascoltabili, sappiate che non è colpa nostra, ma è merito degli artisti che non stiamo pagando in questo momento e stiamo semplicemente streamando per voi. Siamo sul canale São Paulo do Brasil stasera. We'll be right back. se le parole di Bianca Bonavita appunto sono così buone nel scrivere molto del sentire, molto del rapporto che noi abbiamo con la contemporaneità, con quello che ci sta attorno, è proprio perché comunque riflettono come tante delle cose che abbiamo, che ci circondano, in cui siamo intrappolati, in cui ci sentiamo prigionieri, e sono effettivamente delle belle schifezze. E questi sentimenti ci accomunano un casino, più di quello che pensiamo forse, e io penso che sia anche buono che non restino solo nei libri, appunto, ma che si manifestino in delle azioni anche più concrete. E ogni tanto, come è capitato molto recentemente, si manifestano anche in cose che facciamo anche noi come compagni, come militanti, facciamo anche abbastanza fatica a capire, forse, non lo so, come quello che è successo venerdì qua a Firenze, dove c'è stata quella che in Francia si chiamano Manif Sauvage, che ha veramente percorso per un bel po' di ore il centro della città. Questa sera qua noi non vogliamo dire niente di particolare, ma solo un po' approfittare di questo spazio per così fare dire due cose di quello che ci è successo. Ma premettendo che comunque sono cose, comunque quello che è successo ha lasciato, insomma, siamo rimasti, non so, forse io sono rimasto mi ha un po' sorpreso. Devo ancora capire se piacevolmente o negativamente. Un po' in questo momento, a seguito di quella serata, un po' di nostri compagni sono agli arresti, sono in incarcerazione preventiva. Siamo in attesa addirittura di sapere quali sono le loro imputazioni. Assieme a loro ci sono anche altre persone, anche minori, migranti, la gente, insomma, che c'era in quella piazza. Capire bene cosa è successo, secondo me è una cosa che va bene, dai, faremo nei prossimi giorni. Però raccontare un po' è una cosa che sicuramente mi piacerebbe fare anche in questo spazio. Indubbiamente, Beppe, se ti posso interrompere un secondo, guarda, mi ha fatto piacere che tu abbia detto che c'è una cosa che, insomma, ti ha stupito. Non mi sembra poco, cazzo. No, cioè, perché alla fine a me i movimenti non stupiscono da tanto. Già. Invece no, io devo dire, una composizione di piazza di quel tipo, banalmente, non l'avevo mai vista. Comunque, in un po' di anni di frequentazione, diciamo, di piazze più o meno frizzanti, effettivamente mi ha ricordato molto, infatti, non solo a me, ma anche indicativamente a un compagno francese che ho incontrato nelle strade, poi anche proprio le piazze, le prime piazze dei Gilets Jaunes in Francia. C'è appunto una grandissima espressione di un malessere condiviso veramente, in maniera veramente trasversale. Perché effettivamente in quella piazza c'erano sacco di ragazzini. Ma ragazzini che regà, non potete capire. Cioè, io ho incontrato appunto dei ragazzini molto giovani che non sapevano cos'era un lacrimogeno. Sono rimasti fermi mentre una nube tossica li investiva, che non sapevano che niente. Oppure che si stupivano, perché magari avevano visto solo dei video in cui la polizia menava della gente a manganellate. E poi si dicevano tra di loro: oh boia, ma non pensavo facesse così male quando ti danno col manganello. Sicuramente questa esperienza rimarrà impressa nelle loro menti. Farà capire cosa vuol dire avere a che fare con la polizia, che ci sono tanti lati di questa istituzione che fanno male, che una volta che lo capisci difficilmente lo dimentichi. Beh sì, la polizia si è comportata in maniere incredibili e sì, facendo delle cose che io personalmente avevo già visto fare, tipo inseguire, quasi caricare le persone con le macchine, con le camionette lanciate in mezzo alla gente che corre, e poi lasciando stare comunque il grandissimo dispiegamento di uomini e di mezzi, però anche proprio insomma un incarognimento delle guardie veramente forte. E comunque insomma mi immagino anche una persona che non è mai stata in un contesto di piazza anche reso così pericoloso, così caldo, anche un po' per volontà e per la grandissima presenza delle forze dell'ordine, insomma gli rimane bello impresso, perché ad esempio le guardie si sono prese delle responsabilità, cioè, molto molto pese, a caricare delle piazze di persone che scappavano in maniera veramente veramente inconsulte, persone molto poco abituate a stare in queste condizioni. Quindi insomma non è stata un'esperienza molto, molto forte, da cui tanta gente io credo che uscirà con un ricordo molto, anche con molto incarognimento verso come si sono comportati. Come al solito da sbirri, insomma. Ma l'hanno reso molto palese, ecco. Per una volta. Il nostro saluto, il nostro pensiero va in ogni caso ai compagni e alle compagne che in questo momento sono trattenute. Ripeto, ancora non sappiamo quali sono i capi d'accusa, siamo in attesa della giornata di domani e per sapere un po' quale sarà la sorte legale, diciamo, delle nostre amate compagne e compagni. Vedremo di supportarli non solo con la voce della radio, ma anche magari con qualcosa di un po' più concreto nei prossimi giorni. Cosa faremo? E dai, cercheremo di tenervi aggiornati. Adesso, oggi, come dicevamo prima, volevamo solo fare, non fare particolare analisi né niente, ma solo raccontare un po' di impressioni. Io. Ho ritenuto giusto farlo. Grazie Babi, hai fatto bene. Grazie. Invitiamo tutte quante a mettersi in contatto con noi nel caso avessero delle novità rispetto ai compagni inguaiati e o avessero voglia di condividere le loro letture della giornata, così come ha fatto ora il caro Baby. Comunque io mi auspico e insomma spero che la serata di venerdì sia un punto di partenza anche per una bella discussione negli spazi, tra gli spazi, qui nel Fiorentino, e dai, se ne continuerà a parlare, noi credo che continueremo in ogni caso a parlarne, e quindi dai. Radio Wombat che parla di questo. Che abbiamo una nuova comparsa nel nostro studio questa sera. È arrivata a trovarci Morgana. Buonasera. È sempre un piacere ritrovarsi qui a Frittole, ragazzi. Dici Morgana, anche tu sei stata a Firenze venerdì sera? Eri da quelle parti? Sì, passavo da quelle parti. E diciamo che è sicuramente difficile analizzare in maniera lucida la giornata, che anzi la serata, la notte, che è stata quella di venerdì. Le impressioni e le emozioni sono tante. Forse però l'unica cosa certa che si è percepita da quella piazza e da quel movimento che c'è stato per le varie vie di Firenze, che forse Firenze non vedeva da anni, l'unica cosa che forse esce in maniera chiara da quella serata e da quella piazza è la rabbia. È una rabbia che, da quello che ho potuto vedere in piazza, è una rabbia che forse potremmo definire anche molto poco ideologica, cioè molto poco anche di contenuto. Forse perché non abbiamo neanche le linee guida in questo momento per capire bene come direzionare la nostra rabbia e da dove viene questa rabbia. Ci sono tutta una serie di cose che penso ciascuno di noi senta in questo momento, a livello di frustrazione, di impotenza, di un senso proprio anche un po' di alienazione, probabilmente. E quello che penso che quella piazza ci ha espresso è innanzitutto che c'erano un po' tutti, c'erano veramente tutti, da inizialmente, nei primi momenti, dai tricolori e quindi ciò che è riconducibile probabilmente a fascismi ed estrema destra, a parecchi compagni e compagne, a lavoratori e ragazzi di varie provenienze, di varie nazionalità. E questo è quello che ho potuto vedere, c'era di tutto, quindi quello che emerge sicuramente è che da varie parti della società, da varie provenienze, si esprime in maniera collettiva una forma di rabbia. Poi in quella piazza di venerdì di contenuti ce n'erano pochi, di messaggi ce n'erano pochi, di cartelli ce n'erano pochi, non c'era neanche un megafono. E sono tutti elementi che la rendono diversa da quello a cui siamo abituati, sicuramente. Non era una piazza chiara, non era una piazza guidata, è stata una cosa molto, molto spontanea. Non è una novità, però insomma sicuramente penso sia condivisibile da chiunque ha visto, nonostante quello che si pensi dei contenuti della piazza, delle modalità, del futuro di una cosa di questo genere, al di là di quello che si possa pensare su questo, penso che il fatto che ci sia stata una risposta molto violenta sia condivisa molto come sensazione. Non mi sento di poter esprimere altri pareri perché la confusione è tanta, ma penso che se si continueranno a dare piazze come questa in altre città d'Italia ci sarà ancora da riflettere molto su cosa sta succedendo e su cosa ci vogliono dire queste piazze. Senza dubbio. No, ci hai ucciso! Grazie Morgana. No, io pur non essendoci stato venerdì, guarda, sono d'accordo con te. E provavo a dedicarti così proprio il pezzo più scontato che ci possa essere. Questo. Siete pronti? Lo spopperò male? Oh cazzo. Vabbè, pull up. Subito. Rev, sei il nostro controllore preferito. No, lasciamo stare. Ti loviamo. Mi sento un corteo alle superiori, va. Des harmonies profondes, mais dans E stendiamo un velo pietoso, stendiamo un velo pietosissimo sulla connessione internet. London. Ritorniamo, Truzzi, più che mai. Grazie Morgana, comunque, che ci hai fomentato la rabbia. Quando volete. Scusiamo con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. No, ci scusiamo perché a quanto pare continuiamo a saltare, entra la bobina di Wombat, la nostra diretta non regge. Vabbè ragazzi, se non riuscite a sentirci bene adesso, vi ricordo dopo che comunque sul sito di Wombat, wombat.noblox.org, potete ritrovare tutti i podcast, quindi scaricare, ascoltare appuntamento, comodo, qualsiasi trasmissione, compresa la nostra, che troverete sotto le, appunto, il tag delle speciali. Abbiamo poi detto come si chiama sta trasmissione o no? Ragazzi, non guardare in faccia la realtà, è ancora la trasmissione senza nome. Non ci siamo ancora messi d'accordo. D'altra parte questo è sempre stato uno spazio che abbiamo riempito con le nostre riflessioni così senza grandissime pretese, ma anche proprio per la voglia, per il gusto di farlo e perché ci piace. Ci piace stare qui davanti ai microfoni e usare un po' tutta questa bella regia di frittole e usare tutte queste strumentazioni che ci affascinano tantissimo e condividere con voi appunto tutte le cose che ci piacciono. Senza doverci dare una definizione. Grazie Diesis, davvero che bello. No, e va bene, se ci volete raggiungere, insomma, noi la domenica siamo qua, venite anche voi a usare questi microfoni. Ricordiamo che Radio Wombat comunque è aperta e vuole essere partecipata. E se continuiamo ad essere tre stronzi, insomma. No, non è vero, un saluto 4 a tutta oggi. Radio Wombat. E allora continuiamo con continuiamo con le letture. Adesso, come vi avevo detto all'inizio della puntata, mi piacerebbe molto leggere un articolo di questa piccola raccolta che durante un incontro di GC che c'è stato nell'aprile 2019 al Fort Prenestino, avevamo appunto deciso di tradurre. Era una raccolta scritta da un collettivo di Città del Messico e poi stampata per i tipi dell'edizione della Social nel 2017, di testi antipatriarcali però che parlassero di mascolinità e che avessero come destinatari possibilmente appunto degli uomini cisgender. Se questi testi nella loro lingua originale avevano intrigato tantissimo moltissime persone, questo opuscolo ci sembrava veramente ben fatto e quindi si è creato un gruppo di lavoro per tradurlo, nato proprio dalla volontà di Genuino Clandestino di lavorare un po' di più sui temi della depatriarcalizzazione. E il risultato è appunto Non nasciamo maschi, 5 saggi per ripensare l'essere uomo nel patriarcato, che tra l'altro stiamo anche, io almeno, un po' di altra gentaglia, stiamo cercando un po' di spingere, di diffondere, di stampare e di distribuire. E che potete, per esempio, se siete interessate, trovare anche anche in Piazza Tasso quando c'è il mercato il venerdì. Timer, there's no reverse button. Don't get no pull-ups if you do, the lesson's worth nothing. We all muck up and make mistakes cause evolution's cunning. That's why there's morals in everything you could learn from it. Go for the summit, prepare to plummet. Think nothing of it, then rise up and rerun it. Cause the best thing about losing is when you win cause you done it. You flipped it cause you love it, now go see the make suck. Listen. Le tre parole più distruttive che ogni uomo riceve quando è un ragazzo è quando gli viene detto di essere un uomo. Se siamo onesti con noi stessi, sappiamo da tempo che la mascolinità uccide gli uomini in modi sia molteplici che misurabili. Mentre le costruzioni sociali della femminilità richiedono che le donne siano magre, belle, accomodanti e con un equilibrio irraggiungibile tra verginale e scopabile, le costruzioni sociali della mascolinità richiedono che gli uomini provino e riprovino costantemente il fatto stesso che sono, uomini. Entrambe le idee sono velenose e potenzialmente distruttive. Ma statisticamente parlando, il numero di uomini dipendenti e afflitti e la loro durata di vita relativamente più breve dimostra che la mascolinità è in realtà il killer più efficace, che fa il lavoro più velocemente e in numeri maggiori. Il bilancio delle vittime della mascolinità è attribuito alle sue manifestazioni più specifiche: l'alcolismo, lo staccanovismo, la violenza. Anche quando non uccide letteralmente, provoca una sorta di morte spirituale, lasciando molti uomini traumatizzati, dissociati e spesso inconsapevolmente depressi. Questi problemi sono poi accentuati dalla razza, dalla classe, dalla sessualità, da altri fattori di emarginazione. Ma qui ci concentriamo sulla prima infanzia e sulla socializzazione dell'adolescenza in generale. La mascolinizzazione emotivamente dannosa dei ragazzi inizia ancor prima della fanciullezza, nell'infanzia. Lo psicologo Terence Real, nel suo libro del 1998, I Don't Want to Talk About It, Overcoming the Secret Legacy of Male Depression, Non ne voglio parlare, superare la segreta eredità della depressione maschile, mette in evidenza numerosi studi che trovano che i genitori, spesso inconsciamente, iniziano a proiettare una sorta di virilità innata e quindi un minore bisogno di conforto, di protezione, di affetto su bambini piccoli come neonati. Questo nonostante il fatto che nei neonati siano assenti comportamenti di genere. I neonati maschi si comportano in realtà in modi che la nostra società definisce femminili. I bambini e le bambine piccole incominciano ugualmente emotivi, espressivi e dipendenti, desiderosi allo stesso modo di affetto fisico. Nella più giovane età, sia i ragazzi che le ragazze sono più simili a uno stereotipo di ragazza. Se ci sono differenze, i maschietti sono infatti un po' più sensibili ed espressivi delle bambine. Piangono più facilmente, sembrano più facilmente frustrati, appaiono più sconvolti quando una persona che si prende cura di loro lascia la stanza. Eppure sia le madri che i padri immaginano differenze intrinseche legate al sesso tra bambine e bambini. Anche quando i ricercatori hanno controllato il peso, la lunghezza, l'attenzione, la forza dei neonati, i genitori hanno riferito in modo schiacciante che le bambine erano più delicate e morbide dei maschietti. Hanno immaginato che i maschietti fossero più grandi e generalmente più forti. Quando un gruppo di adulti è stato mostrato il video dello stesso neonato che piangeva e gli sono state fornite informazioni diverse sul sesso del bambino, hanno ritenuto il neonato femmina come spaventato, mentre il neonato maschio è stato descritto come arrabbiato. I ragazzini interiorizzano presto questo concetto. Quando ho parlato con Rial, mi ha indicato che la ricerca suggerisce che cominciano a nascondere i loro sentimenti già dai 3 ai 5 anni. Ciò non significa che abbiano meno emozioni, ma stanno già imparando il gioco, che non è una buona idea esprimerle. I ragazzi, sostiene la saggezza convenzionale, diventano uomini non semplicemente invecchiando fino a diventare un uomo, ma attraverso la stritolante socializzazione appena descritta. Ma Real sottolinea ciò che dovrebbe essere ovvio sui ragazzi cisgender. Non hanno bisogno di essere trasformati in maschi. Sono maschi. I ragazzi non hanno bisogno di sviluppare la loro mascolinità. È impossibile minimizzare l'influenza concomitante di immagini e messaggi sulla mascolinità incorporati nei nostri media. I programmi televisivi e i film informano i bambini e tutti noi, in realtà, non tanto su chi sono gli uomini e le donne, ma su chi dovrebbero essere. Mentre gran parte della ricerca sulle rappresentazioni di genere nei media è venuta dalle femministe, che hanno decostruito le infinite e dannose rappresentazioni delle donne, ci sono state molte meno ricerche, specificatamente sulle condizioni mediatiche della mascolinità. Ma certamente tutti noi riconosciamo i tratti che sono apprezzati tra gli uomini nel cinema, in televisione, nei videogiochi, nei fumetti e in altro ancora: la forza, il valore, l'indipendenza, la capacità di provvedere e proteggere. Sebbene le raffigurazioni di uomini siano diventate più diversificate, sfumate e umane nel corso del tempo, abbiamo superato da tempo i giorni degli archetipi, il padre ha sempre ragione e Superman, certe qualità maschili rimangono apprezzate rispetto ad altre. Sebbene la rappresentazione degli uomini nei media siano diventate più diverse, la narrazione ha comunque svolto un lavoro ideologico significativo, sostenendo costantemente personaggi maschili, che costruisce come eroici o ammirevoli, denigrando gli altri. Così, sebbene le serie televisive possano aver dimostrato una gamma di uomini e mascolinità, hanno anche circoscritto una mascolinità preferita o migliore, attraverso attributi che sono stati costantemente idealizzati. Conosciamo tutti questi personaggi ricorrenti. Sono impavidi eroi d'azione, fotti prostitute psicopatici in Grand Theft Auto, padri di una sitcom inetti e avversi alle faccende domestiche, con mogli inspiegabilmente belle. Fattoni maldestri sui 20 anni che alla fine riescono ancora ad inchiodare la ragazza sexy. E ancora l'impenetrabile Superman. Anche il sensibile e adorabile ragazzo qualunque di Paul Rudd in qualche modo si fa uomo prima che i titoli di coda si srotolino nei suoi film. A questo proposito, sembra importante citare uno studio della National Coalition on Television Violence, che ha rilevato che in media i maschi americani diciottenni hanno già assistito a circa 26.000 omicidi in televisione, quasi tutti commessi da uomini. Accoppiate questi numeri con la violenza nei film e negli altri media, e i numeri sono probabilmente astronomici. Il risultato di tutto questo, la negazione precoce dei sentimenti dei ragazzi e la nostra insistenza collettiva affinché seguano la regola, è che i ragazzi sono effettivamente tagliati fuori dai loro sentimenti e dalle loro emozioni, dal loro sé più profondo e vulnerabile. La storica Stephanie Kontz ha definito questo effetto la mistica maschile. Lascia i ragazzini, e più tardi gli uomini, emotivamente disincarnati, timorosi di mostrare debolezza e spesso incapaci di accedere pienamente, riconoscere e affrontare i loro sentimenti. Questi messaggi incoraggiano i ragazzi a essere competitivi, a concentrarsi sul successo esterno, a fare affidamento sul loro intelletto, a resistere al dolore fisico, a reprimere le loro emozioni vulnerabili. Quando i ragazzi violano il codice, non è raro che vengano presi in giro, svergognati o ridicolizzati. Il cliché sul fatto che gli uomini non siano in contatto con le loro emozioni non dice nulla sui marcatori intrinseci della mascolinità. Identifica invece risultati comportamentali che sono stati rigorosamente insegnati, spesso da genitori ben intenzionati e dalla società in generale. Questo processo di disconnettere i ragazzi dal loro sé emotivo, femminile o più precisamente umano, è profondamente dannoso. Ogni passo è lesivo e traumatico. È traumatico essere costretti ad abdicare a metà della propria umanità. Questo trauma si manifesta in modi in cui gli uomini cercano di sublimare i sentimenti di bisogno emotivo e di vulnerabilità. Mentre le donne tendono a interiorizzare il dolore, gli uomini invece lo recitano contro se stessi e gli altri. Le donne danno la colpa a se stesse, si sentono male, sanno di stare male, vorrebbero uscirne. I ragazzi e gli uomini tendono a esternare lo stress. Noi lo recitiamo e spesso non vediamo il nostro ruolo in esso. È l'opposto dell'autocolpevolizzarsi. È più simile a sentirsi una vittima arrabbiata. (Sussurra) Esempi di questi comportamenti distruttivi vanno da quelli approvati dalla società, come lo stacanovismo, a quelli penalmente perseguibili, come la tossicodipendenza e la violenza. Gli uomini hanno il doppio delle probabilità di soffrire di disturbi di rabbia rispetto alle donne. Gli uomini hanno più probabilità di bere fino all'eccesso rispetto alle donne, il che porta a tassi più elevati di morti per alcolismo e di ricoveri ospedalieri. I ragazzi hanno più probabilità di aver fatto uso di droghe all'età di 12 anni rispetto alle ragazze, il che porta a una maggior probabilità di abuso negli uomini e nelle donne più tardi nella vita. Gli uomini americani hanno più probabilità di uccidere, commettendo il 90,5% di tutti gli omicidi, e di essere uccisi, il 76,8% delle vittime. Questo si estende a se stessi, secondo gli studi. I maschi si tolgono la vita quasi 4 volte più delle donne e rappresentano circa l'80% di tutti i suicidi. I 10 anni di differenza della longevità tra uomini e donne, allora, forse si rivelano avere poco a che fare con i geni. Gli uomini muoiono presto, perché non si prendono cura di se stessi. Gli uomini aspettano più a lungo per riconoscere di essere malati, impiegano più tempo per ricevere aiuto, e una volta che si sottopongono al trattamento, non lo rispettano. La mascolinità è sia difficile da raggiungere che impossibile da mantenere. Poiché l'autostima degli uomini spesso si basa su un costrutto così instabile, lo sforzo per preservarlo può essere distruttivo. Evitare la vergogna che rimane quando viene scalfita l'autostima può portare alcuni uomini a pericolose conseguenze. Questo non esonera le persone dalla responsabilità delle loro azioni, ma evidenzia le forze che sottostanno e influenzano i comportamenti che spesso attribuiamo a problemi singoli, ignorando le cause alla radice. Troppo spesso gli uomini che soffrono lo fanno da soli, credendo che rivelare il loro dolore personale equivalga a fallire nella loro mascolinità. Come società abbiamo più rispetto per i feriti che camminano che per coloro che negano e per coloro che negano le loro difficoltà di quanto ne abbiamo per coloro che lasciano che le loro condizioni abbiano la meglio. Eppure il costo, sia umano che in denaro, non riconoscere i traumi degli uomini è di gran lunga maggiore che curare quelle ferite o evitare di crearle in primo luogo. È fondamentale iniziare a considerare più seriamente ciò che facciamo ai bambini, come lo facciamo e l'alto costo emotivo richiesto dalla mascolinità, la quale trasforma i bambini emotivamente completi, uomini adulti emotivamente debilitati. Quando la mascolinità è definita dall'assenza, quando si basa, come fa, sull'idea assurda e fallace che l'unico modo di essere uomo sia quello di non riconoscere una parte fondamentale di se stessi, le conseguenze sono al tempo stesso viziose e distruttive per l'anima. Abbiamo stabilito uno standard ingiusto e irraggiungibile, e nel cercare di esserne all'altezza, molti uomini si stanno lentamente uccidendo. Dobbiamo andare ben oltre le nostre idee antiquate di mascolinità e superare le nostre idee su cosa sia l'essere uomo. Dobbiamo iniziare a vedere gli uomini come nati tali, senza bisogno di dimostrare chi sono a se stessi o a chiunque altro. Può essere un uomo collaborativo, solidale, tenero, anche senza dover sviluppare il lato femminile della mascolinità. Piuttosto, bisogna sviluppare quel lato della mascolinità che sembra esserci stato ancestralmente negli esseri umani e che, a causa della rivoluzione del patriarcato, è stato negato per gli uomini. molto interessante, Beppi, questo articolo. Grazie di averlo condiviso con noi. Mi ha colpito molto, mi ha fatto molto riflettere. Mi ha fatto un po' pensare a questa emotività, che quando dice le donne ci sono dentro così tanto che se ne sentono prigioniere e ne vogliono uscire, se la sentono dentro, mentre gli uomini la esternano fuori sotto forma di rabbia, di violenza. E mi chiedo come mai siamo addestrati e addestrate sin da piccole a non badare troppo a queste emozioni, perché appunto ci viene richiesto questo. Forse perché le emozioni ci dicono qualcosa, ci danno dei messaggi, ci dicono: questo non ti fa bene, qui non devi rimanere, cambia strada, cambia idea. È dura ascoltarle. Sì, sì. No, io credo molto, molta fiducia nell'umanità e nei nostri corpi che si ribellano e cercano di farcelo capire appunto a queste imposizioni, a queste costruzioni, questi pregiudizi assurdi che sono stati creati negli ultimi secoli dalla cultura patriarcale e i cui effetti nefasti abbiamo davanti agli occhi in maniere che sono a volte molto evidenti, a volte invece molto sottili. Ed è proprio un circolo vizioso, ed è proprio un circolo vizioso di alimentazione della dinamica tossica patriarcale, quello proprio che ti porta a non riconoscerla, anzi peggio, no? Riconoscerla come naturale, come innata, appunto. Anche in ambienti molto attenti a queste tematiche, infatti può capitare, mi è capitato di pensare al sessismo, di pensare al patriarcato come solo legato alla violenza sessuale e veramente poco altro. Non è così. Sì, infatti penso che una riflessione invece molto più ampia proprio sulla depatriarcalizzazione del nostro quotidiano e della società e sia necessaria, sia sempre più pressante. Questo che ho letto forse non è il miglior articolo sulla departamentalizzazione, fa un largo uso di statistiche, di cose che non mi entusiasmano troppo, però mi è piaciuto molto perché esprime un sacco di concetti in maniera molto chiara e molto importanti, che sono poi dei concetti base che anche emergono abbastanza velocemente per esempio in un confronto aperto e tranquillo tra uomini su queste cose qua. E in primis il fatto che l'ideale di mascolinità è una cosa che mette in difficoltà gli uomini, mette in difficoltà tantissimi uomini, perché appunto è irraggiungibile. è uno standard che non fa altro che metterti in costante prova contro te stesso, in una prova conflittuale contro te stesso che non finisce mai e che spesso infatti si esaurisce in questa tensione costante a cui sei condannato, si esaurisce spesso in atti inconsulti, violenti, pericolosi anche per gli altri, per te. Ma non solo, sì. è anche proprio un sentire, quando se impari un po' ad ascoltarti è anche il tuo disagio. E quindi vai, partire da questo, dalle esperienze comuni, palpabili, che possiamo tutti qua, in cui possiamo in tanti riconoscerci, penso che sia molto molto utile. Molto molto utile e necessario che appunto ci siano anche le stesse soggettualità maschili, gli uomini, che ci ragionino sopra e che lo facciano. Dai. Prima è meglio è. Dai! Yeah. E quindi noi questo opuscolino, da cui abbiamo letto un articolo, lo stiamo spingendo abbastanza. Vi ricordo che se siete interessati, se lo volete, potete trovare al mercato di Piazza Tasso ogni venerdì pomeriggio. E ogni venerdì pomeriggio, offerta libera. Ho sempre a fare pubblicità al mercato, baby. Oh, sempre. Ogni volta. Che è il mio unico contatto con la città, quindi punto tutto lì. Tutto molto bello, davvero, davvero ricca di spunti la lettura che ci hai fatto, anche densa, comunque scende molto, sì. No, nel percepire noi stessi, nel pensare noi stessi, e poi la società, che cosa fa la società? No, va bene, ti ringrazio, sono contento. Leggiamone altri di questi brani, dai, ti prego. Sì, ne leggeremo altri. Io ve li volevo leggere sia come estratti, sia più o meno interi, come quello che ho letto adesso, però ve li riproporrò sicuramente. Se non sarà la mia voce, insomma, sarà qualcun altro. Io. 21:10, 1 novembre 2020, Radio Wombat, maledetti. Stiamo per salutarvi, vi sa. Riprendiamo con la nostra trasmissione, con i nostri spunti letterari. Mi ricollego un pochino all'intervento del Beppi per dire quanto mi rendo conto ultimamente di quanto sia importante appunto capire, un po' smascherare quelle che sono i costrutti della nostra società, che diamo per scontato, ma che in realtà si basano su secoli e secoli di costruzione di un ideale che possa fare andare avanti la baracca. un ideale appunto che spesso ci viene imposto e viene tramandato di secolo in secolo nella nostra società occidentale, capitalistica e patriarcale. Dunque, anche per questo mi sono appunto interessata a un altro opuscolo scritto da Michela Zucca, un'antropologa che fa ricerca appunto sulle culture popolari e sulla storia delle donne in particolare. E questo opuscolo si intitola Donne delle foreste e delle montagne, l'eresia delle femmine ribelli. Mi è passato appunto fra le mani perché a proposito di Piazza Tasso avremo l'onore di ospitarla il 20 novembre per una presentazione, quindi se vi piace quello che leggeremo potrete venire a conoscerla di persona. Cominciamo il nostro racconto dalle radici della cultura, che attualmente ancora domina il pensiero occidentale, il modello greco e latino, razionalistico e misogino. E cominciamo dalla madre mitica, ispiratrice di ogni femmina ribelle. Per Aristotele non esistono parole, né immagini, né categorie per esprimere la materia indifferenziata, perché la forma è la condizione dell'accesso logico alla realtà. C'è solo un vocabolo che il filosofo non può evitare parlando dell'indicibile. È hyle, è il primo a dargli il senso filosofico di materia. Tuttavia in origine hyle non significava materia, ma foresta. Il suo derivato in latino è silva. Il latino arcaico, silva, foneticamente è vicino a hyle. Ma lo stesso vocabolo materia non si allontanava molto da foresta. Materia vuol dire legno. Il legno utilizzabile dall'albero, in opposizione alla scorza, ai frutti, alle foglie. E materia ha la stessa radice di mater, la madre. Questa parentela prelinguistica riesce a esprimersi nel mito. Si manifesta in Ovidio, nelle storie di uomini trasformati in animali, in fiori, in alberi, in altri fenomeni della foresta. Le tappe della metamorfosi mettono in scena la natura fondamentalmente superficiale delle forme della creazione, evidenziando i legami che uniscono tutte le cose in virtù della genesi comune. La divinità che presiede le selve per i greci è Artemide, per i romani Diana, cacciatrice e protettrice degli animali selvatici, ma anche delle partorienti. È la grande matrice del mondo al di là delle zone abitate dagli uomini, civili. Nutre i cuccioli con latte delle proprie mammelle. È la guardiana dei misteri crudeli. È l'iniziatrice alla conoscenza della natura non umana. Non la si può vedere né avvicinare. È la matrice, la materia e la madre insieme. È lo spirito del bosco che fa nascere un'immensa specie di forme che sorveglia la vicinanza originale con la rete di corrispondenze materiali che animano la selva. Negli spazi selvaggi non esistono differenze irriducibili. Il suo ricordo rimarrà a lungo nella memoria popolare e molti processi alle streghe, prima che del demonio, parlano proprio di lei. È l'archetipo della donna selvaggia che prende il nome di una dea e che serve per preservare un'intera civiltà, la cultura della foresta. E mentre nelle città romane prima e cristiane poi trionfa una religione che serve le classi dominanti e che in seguito modella essa stessa chi avrà il privilegio di governare, sotto l'ombra materna degli alberi millenari si continua ad adorare la grande dea. Per tutto il Medioevo immense foreste meravigliose ricoprono il continente nell'indifferenza dei tempi. qua e là piccoli insediamenti umani sparsi sopravvivevano con la caccia e la raccolta di quanto il bosco poteva offrire. Per il nuovo ordine sociale che si riorganizzava lentamente sulla base delle istituzioni feudali e religiose, le foreste erano per l'appunto foris all'esterno. Là vivevano i proscritti, i folli, gli amanti, i briganti, i fuggitivi, i disadattati, gli eremiti, i santi, i lebbrosi, i rivoluzionari, gli eretici, i perseguitati, le streghe, le donne perdute, gli uomini selvaggi. Ma non solo. In periodi di grande instabilità, di invasioni, di scorrerie violente da parte di popoli stranieri sull'arco alpino, ma non solo, molte città spariscono completamente e gli abitanti superstiti si ritirano a vivere nelle grotte, al di fuori dei sentieri battuti dalle orde di barbari, protetti dalle fronde dei boschi impenetrabili. La Chiesa cristiana, che nel frattempo cercava di unificare l'Europa sotto il segno della croce, era fondamentalmente ostile alle montagne, queste barriere impassibili di natura incolta. I principi di identità e non contraddizione, fondamenti della logica che presiede al pensiero dell'uomo civile, svaniscono nella foresta. Il profano si trasforma in sacro, il fuorilegge diventa il difensore di una giustizia superiore, vedi il mito di Robin Hood, diffuso sotto varie forme su tutto il continente europeo. Che la legge sia religiosa, politica, psicologica o anche solo logica, la foresta la destabilizza. Le foreste sono al di là della legge, o meglio, fuori dalla legge. La bestialità, la caduta, il nomadismo, la perdizione, queste le immagini che la mitologia cristiana associa alla foresta e alla montagna. Dal punto di vista teologico, i boschi rappresentano l'anarchia della materia. Essendo l'esatto contrario del mondo, creata a immagine di Dio, erano considerati come gli ultimi bastioni del culto pagano. Nelle tenebrose foreste celtiche regnavano i druidi. In Germania esistevano i boschi sacri. Di notte, appena fuori delle città, assediate da vicino, dalla selva sterminata, le streghe celebravano i loro riti. Antichi demoni, fate e spiriti della natura si aggiravano fra gli alberi e la popolazione manteneva e coltivava i legami tradizionali col passato pagano. Ci volle di sicuro molto tempo per conquistare le campagne e per convertire quei pagani che erano i contadini. Nelle foreste si stabilirono i monaci e le purificarono dissodandole. Dove prima si trovavano dei boschi sacri venivano fondati dei monasteri. Ma gli esseri un tempo divini nel Medioevo vivevano ancora al riparo delle fronde. La Chiesa non era riuscita a esorcizzarli tutti. Il terrore, suscitato dalla loro apparizione o anche da un rumore sospetto, da una luce insolita che ne annunciava la presenza, altro non era che quel panico ben conosciuto dagli antichi. La parola greca indicava l'incontrollabile spavento che si impadronava di chi, in un luogo isolato, incontrava Pan, dio cornuto della foresta e della sessualità sfrenata e contagiosa. Ancora una volta, Pan significa tutto come Hyle, Silva e materia. In persona l'energia genetica che anima l'universo e che è il tutto della vita. La sua stessa origine, il timore che può ispirare, è più che giustificato. Così, dopo questa introduzione, Michela Zucca ci parla un po' di quelle che erano le fate, le streghe, e di quelle che invece erano le sibille, le profetesse, che hanno dato appunto, che hanno popolato i Monti Sibillini nelle Marche in Italia. Il luogo in cui la memoria storica dell'antica società è rimasto più a lungo sono le Marche. Regione fuori dalle grandi strade commerciali e militari, coperta di montagne e di boschi, un tempo quasi impenetrabili. Là queste antiche sacerdotesse, depositarie della conoscenza magica, ma anche del potere sulle proprie comunità, hanno lasciato il nome al territorio che per millenni le ha ospitate, i Monti Sibillini. L'organizzazione sociale e politica sibillina, ancora dopo l'unità d'Italia, si reggeva sulle comunanze. Praticamente la proprietà privata non esisteva. Non solo il bosco e il pascolo erano di uso collettivo, ma anche il seminativo veniva coltivato a turno dalle famiglie che facevano parte della comunità. La civiltà delle Sibille è stata per secoli un punto di riferimento e di attrazione per gli intellettuali che contestavano l'assetto teocratico militare dello Stato. Cecco d'Ascoli fu mandato a rogo per aver avuto rapporti con i negromanti e le Sibille dei Monti Sibillini. Molti pensatori fra i più noti, dal 300 al 600, dal Cavaliere della Salle ad Agrippa von Nettesheim, da Benvenuto Cellini ad Andrea Silvio Piccolomini, andarono a visitare la Sibilla, passando per Norcia, in Umbria, o per Monte Monaco, nelle Marche. Lì chiedevano un mulo e una guida per avventurarsi sulle montagne. E quello che trovavano non era una vecchia stravagante che leggeva la mano davanti a una grotta, ma una comunità di contadini, pastori, artigiani, tessitrici, guaritrici, che vivevano secondo regole diverse da quelle che erano imposte nelle società di pianura. Quelle montagne, come le Alpi, divennero rifugio di tutti coloro che non erano d'accordo con il potere: eretici, libertari, templari sopravvissuti alle stragi di Filippo il Bello, catari, anabattisti o semplicemente intellettuali che non accettavano l'egemonia teocratico-militare degli stati in formazione. Tutto ciò causò una feroce persecuzione nei primi anni del 300. I francescani locali accusarono le Sibille di aver preparato un avvelenamento a distanza contro Papa Giovanni XII e sulle montagne delle Matriarche fiammeggiarono i roghi. Ebbene sì, la stregoneria e le streghe sono state vittime dell'Inquisizione, vittime di una repressione violenta e omicida. E anche qui chiediamoci il perché, a quale scopo, come mai è avvenuto tutto questo. Sicuramente è molto interessante l'interpretazione che dà Silvia Federici nel suo libro molto famoso Calibano e la strega, in cui parla dell'evoluzione della repressione della donna nei secoli. E in particolare parla anche della magia, di come mai la magia spaventasse così tanto la Chiesa e il potere costituito. Dice la Federici che questa paura si traducesse in un attacco contro la magia popolare non è fatto strano. La guerra contro la magia ha sempre accompagnato lo sviluppo del capitalismo fino ai giorni nostri. La magia si basa sulla credenza che il mondo sia animato, imprevedibile e che ci sia una forza presente in ogni cosa: acqua, alberi, sostanze, parole. Ma agli occhi della nuova classe capitalista, questa visione anarchica e molecolare della diffusione del potere nel mondo suonava come un anatema. Aspirando a controllare la natura, l'organizzazione capitalistica del lavoro doveva eliminare l'imprevedibilità implicita nelle pratiche magiche e la possibilità di stabilire un rapporto privilegiato con gli elementi naturali, come anche la credenza nell'esistenza di poteri fruibili solo da determinati individui e quindi non generalizzabili e non sfruttabili. La magia costituiva inoltre un ostacolo alla razionalizzazione del processo lavorativo e una minaccia all'affermarsi del principio della responsabilità individuale. Ma soprattutto la magia appariva come una forma di rifiuto del lavoro, di insubordinazione e come uno strumento di resistenza popolare contro il potere. Il mondo doveva essere disincantato per poter essere dominato. Thank you. Così conclude Michela Zucca. Non fu tanto la religione, quanto il razionalismo militante che alla fine fece scomparire le fate e le altre creature silvestri. Se la Chiesa si era limitata a mettere in guardia i fedeli contro spiriti che potevano essere pure di obbedienza satanica, il razionalismo ne negò l'esistenza, come negò quella del diavolo e delle streghe. A scuola si imparò che erano tutte superstizioni d'altri tempi. La foresta, finalmente liberata dal suo incantesimo, poteva ormai essere sfruttata secondo la tecnologia moderna che distruggeva l'ambiente. La sorcarono strade, retti fili disboscati penetrarono fin nel più fitto degli alberi. Il popolo dei boschi perse l'unica risorsa di cui disponeva, il rifugio in cui ritirarsi al di fuori dell'influenza dei civili, che erano riusciti ad occupare ogni angolo, in cui vagare a proprio piacimento come animali selvatici. E perse Dio. Grazie Diesis per questo bellissimo pezzo che ci hai letto. E sì, guarda, la considerazione, cioè quello che mi ha colpito di più, quello che è l'elemento in cui forse anche mi sono riconosciuto proprio, quello, una delle ultime cose che hai detto, cioè quello del razionalismo militante. effettivamente sì, cioè anche noi, anche come, e anche un po', e anche effettivamente anche come militanti, cioè tendiamo molto appunto a essere estremamente imbevuti in un razionalismo che forse può avere i suoi, sicuramente i suoi vantaggi, ma che forse è anche interessante mettere in critica. E soprattutto poi se lo si vede appunto sotto la luce di uno degli strumenti che sono responsabili dell'espropriazione, ok? che ci sentiamo, che ci è stata fatta, che era appunto quella di un, quella proprio degli strumenti che ci davano la possibilità di vivere bene, di vivere insieme, di vivere secondo delle regole armoniche all'interno della, della società, di una comunità e di un ambiente in cui si cala questa vita, che magari erano meglio interpretate da, da altre cose che non da questo fottuto razionalismo che, di cui, che abbiamo sempre attorno e cui, di cui la nostra mente, con cui la nostra mente è stata costruita. Sì, ci hanno privato di questi strumenti, ci hanno privato anche dei, dei mezzi di sostentamento, come, come dicevano entrambe le antropologhe, ci hanno privato delle terre comuni, delle foreste, degli spazi di condivisione della terra. E un importante anche lavoro, appunto, che è importante fare su noi stessi e sulla cultura tutta, è quella di appunto liberarci da questo di questa razionalità come unica fonte di verità, che a volte la verità sta anche nell'invisibile, nell'incomprensibile, sta anche nella natura e non solo nel pensiero, sta nel corpo e non solo nella mente. E è una cosa molto importante che ho imparato anche dalla genealogy, cioè dalla scuola delle donne curde, cioè dal fatto che appunto determinati valori come la luce, il bianco, la forza, la razionalità, la mente, sono sempre stati visti come valori superiori e più importanti rispetto a quelle che era invece il corpo, la natura, l'oscurità, l'ombra e il mondo femminile. Credo che una grande rivoluzione parta anche da questo, dal poter rovesciare i valori della nostra cultura dominante. Non sostituendoli magari con un vuoto cosmico che non sappiamo come riempire, con un'ansia di cui non sappiamo trovare l'origine, ma magari invece cercando di recuperare invece quello che ci è stato tolto, che ci è stato portato via, e anche creando degli strumenti nuovi, dei nuovi modi di sentire e di interpretare tutto questo. Che siano invece contemporanei, che siano nostri, che vengano da noi, dalla nostra storia e dal nostro vissuto. Senza magari cedere alla tentazione di etichettare tutta sta roba come fricchettonate. Quindi se volete incontrare e conoscere Michela Zucca, il 20 novembre, venerdì pomeriggio, in Piazza Tasso, verrà a presentare qualcuno dei suoi lavori, ora non ricordo quale, forse proprio questo. Sì, sì, se ben ricordo, no, la discussione dovrebbe essere a partire da questo opuscolo. Ma Michela Zucca, insomma, ha prodotto anche molto altro, vi invito ad andare a scoprirla. E anche le sue collaborazioni, ha scritto anche una marea di articoli, la ricordo piacevolmente per questo, per la sua collaborazione di lunga data con la rivista Nunatak, storie di lotta e cultura della montagna. Altra bella fonte di letture, alcune delle letture che sono scaturite da questi microfoni negli ultimi mesi. Quindi ancora al mercato, ancora Piazza Tasso, insomma stiamo sempre lì. Quindi venite, che c'è l'iniziativa con la Michela Zucca il 20 di novembre. Ecco, ci mancava una data. Che bello, sono proprio contento che stasera ce la stiamo prendendo così con calma, stiamo zero orari. Sì, ma Wombat è grande, magnanima. E ci lascia spazio in palinsesto fino alle 10. Per riempire il tempo fino alle 10, ora potremmo iniziare a raccontare, non lo so, delle barzellette, filastrocche. Oppure dire le solite cose di routine, tipo di scriverci una mail e di ascoltare Radio Wombat, non lo so. Salutiamo anche Radio Spore. Thank you. Va bene, grazie Beppe che mi hai dato là. Io vorrei andare a cena. Anche noi. È stato tutto molto bello, grazie a Diesis, grazie Beppe per le letture, davvero. Mi avete sciolto il cuore e aperto la mente. È stata un'altra grande serata qui a Frittole. Rimanete incollati a Wombat. Non so se vi conviene, ma fatelo. Salutiamo anche Radio Merda Malata. Musica molesta. Su questo bel po' di noise che noi ci salutiamo, buon amici, e vi rimandiamo al nostro punto blog di Radio Wombat se vi siete persi qualcosa, se la diretta è stata forse un po' fallace, quindi andate a cercarvi il podcast di questa come di tutte le trasmissioni di Radio Wombat su wombat.noblogs.org. Direi che con questo il Beppe Manin vi saluta. Ai controlli abbiamo il reverendo che ci ha deliziato con la sua selezione musicale sempre speciale e poi la Diesis. Ciao a tutte, buonasera, spero di rincontrarvi presto in questo spazio di ampiezze. È stato un piacere stare con voi questa sera. Grazie reverendo, grazie Beppe. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Ciao ciao. Addio.